pronti? Motore. Partito. Ciak. Azione. Stai attento. Stai bene attento se della vita la continuazione a cuor ti sta. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are. A cinema, a cinema. Mettetevi comodi, stiamo per raccontarvi Arancia Meccanica di Stanley Kubrick. Londra, in un futuro indefinito. Alex, appassionato cultore della musica di Beethoven, è il capo di un quartetto di giovani teppisti abituati a commettere violenze di ogni tipo. Alla lunga, esasperati dal suo atteggiamento dispotico, i suoi si ribellano e lo consegnano alla polizia. Condannato e imprigionato, Alex si vede offrire una chance di libertà. In cambio, dovrà sottoporsi a una terapia sperimentale chiamata Cura Ludovico. Audiogrammi in radio come al cinema. Alex e i miei tre droni, cioè Pete, Georgie e Tim. Ed eravamo seduti nel Coroba Milk Bar, arrovellandoci il Gulliver per sapere cosa fare della serata. Il Coroba Milk Bar vende latte più, cioè diciamo latte rinforzato con qualche droguccia mescalina, che è quel che stavamo bevendo. È roba che ti fa robusto e disposto all'esercizio dell'amata ultraviolenza. Vestiti all'ultimo grido della moda, che in quei giorni prevedeva un paio di braghe attillatissime e delle giacche strette senza risvolti, ma con quelle spallone molto imbottite che erano una specie di presa in giro di chi aveva le spalle fatte in quel modo. Poi avevano delle cravatte bianche che parevano purè di patate. I capelli non li portavano molto lunghi e avevano degli stivali robusti fatti apposta per menar calci. Quello seduto nel divano accanto ad Alex era già partito, con gli occhi appannati, era proprio fuso. Dopo aver bevuto il vecchio latte più, te ne stavi lì e ti isolavi, come se tutto quello che c'era intorno fosse scivolato nel passato. Eri come ipnotizzato e allo stesso tempo era come se ti prendessero per la vecchia collottola e ti scuotessero forte come un gatto. Ti scrollavano e ti scrollavano finché non rimaneva più nulla. Perdevi il nome, il corpo e la personalità. E non te ne importava proprio un bel niente. Poi le luci cominciavano a scoppiare come delle bombe atomiche e ti sentivi come uno che stava per essere presentato a Dio in persona quando tutto finiva. Alex e i suoi decisero di uscire fuori a camminare. Così scattarono nella grande notte d'inverno e camminarono giù per Margarita Boulevard e poi voltarono in Boothby Avenue. E lì trovarono proprio quello che stavano cercando, un vecchio barbone ubriaco. Stava come appiattito contro il muro ed era ridotto uno schifo. Una cosa che non mi era mai piaciuta era la vista di un vecchio sporco sbronzo che abbaia canzonacce care ai suoi padri e procede di rutto in rutto come se avesse tutta una lurida orchestra nelle sue putride budella. Non li ho mai potuti sopportare, di qualunque età fossero, ma meno che mai quelli stagionati come era questo. E avreste qualche spicciolo da darmi, fratelli? Avanti, fatemi fuori, sporchi vigliacchi! Io tanto non voglio vivere, non in uno schifo di mondo come questo! Oh, e niente che ha di tanto schifoso questo mondo? È uno schifoso mondo perché non c'è giustizia, non ce n'è più! È uno schifoso mondo perché adesso i giovani maltrattano i vecchi come fate voi! Oh, no, per i vecchi non c'è più aria, aria! Allora, che razza di mondo è questo? Uomini sulla luna, uomini a spasso intorno alla terra, e non c'è nessuno che rispetta la legge, nessuno che tiene l'ordine, nessuno più! Oh, dolce patria, difesato, e tu... Così gli saltarono addosso e gli assestarono dei bei calci, ma lui continuò a cantare. Quando Bamba gli mollò un paio di pugni su quel grugno fetente da ubriacone, solo allora smise. Gliele suonarono che era una bellezza. Calci e pugni da ogni parte. Poi lo calpestarono con gli stivali, un colpo per uno. E poi fu il sangue, che uscì da quel suo vecchio grugno fetente. Poi Alex e gli altri se ne andarono per i fatti loro. Fu sotto la centrale elettrica municipale che incontrarono Billy Boy e i suoi cinque Soma. Dovete sapere che in quei giorni le bande erano quasi tutte di quattro o cinque ragazzi. Billy Boy era qualcosa che ad Alex faceva venir voglia di pura e sana violenza. Si guardarono tutti a lungo e da tutte e due le parti ci fu come una specie di tranquillo stato d'allarme. Billy Boy e i suoi Soma smisero di fare quello che stavano facendo, e cioè prepararsi a violentare una ragazza piagnucolante ancora con i vestiti addosso, Billy Boy che la teneva per un braccio, Leo che la teneva per l'altro. Probabilmente avevano fatto solo la prima parte di quello che avevano in mente di fare prima di darsi a un po' di ultraviolenza. Ma quando li videro avanzare, lasciarono andare la ragazza, perché tanto ce n'erano un mucchio dove avevano preso quella, e lei scappò via. Ma questo è il grasso puzzoso Billy Goat Billy Boy in carne e ossa. Come ti porti? Tu, gonfia palla di grasso puzzolente unto e bisunto, ne gradiresti una nelle balle? Se di balle ne hai tu, gelatinoso eunuco. Attacco, boys! E così cominciarono. Il gruppo di Alex contro quello di Billy Boy, 4 contro 6. Ma il vecchio Bamba contava per 3, come puro, folle e sporco picchiatore. Bamba aveva una lunghissima catena girata 2 volte intorno alla vita. La srotolò e cominciò a sbatterla. Pete e Georgie avevano dei bei coltelli affilati, e Alex, da parte sua, aveva un ottimo coltello, che a quei tempi sapeva far lampeggiare davvero artista. E fu appunto col coltello che riuscì ad aprire fino in fondo la pancia di uno della banda di Billy Boy. Un taglio pulito pulito senza nemmeno toccargli gli organi. Così, nel caos, questo si ritrovò improvvisamente aperto come il guscio di un pisello, con la pancia nuda a urlare e a gesticolare, perdendo la posizione di guardia e lasciando che il vecchio Bamba entrasse con la catena che sibilava e gliela sbattesse dritta nel viso. Ci volle poco a mettere fuori combattimento il numero uno di Billy Boy, perché Bamba l'aveva accecato con la catena e lui si era messo a strisciare per terra ululando come una bestia. Poi bastò un bel colpo di stivale per mandarlo completamente out. Dei 4 di Alex, come al solito, era Bamba quello conciato peggio nell'aspetto, sporco e insanguinato, ma gli altri invece erano ancora freschi e tutti interi. A Billy Boy Alex aveva affettato la guancia destra e poi la sinistra, così che 2 tendine di sangue gli calarono quasi simultaneamente sulla faccia. Una di qua e una di là. La polizia! Via, andiamo! Billy Boy e i suoi corsero via, lenti e col fiato corto, eccetto Leo numero 1, che rimase sdraiato a terra. Se ne andarono a nord, verso il fiume, mentre Alex e i suoi se ne andarono dalla parte opposta. Proprio girato l'angolo c'era una viuzza buia, deserta e aperta da tutti e 2 i lati. si riposarono lì, ansimando prima forte e poi più piano, e alla fine respirando normalmente. Alex notò una Durango 95. Ci saltarono sopra, Bamba e Pete dietro, che sfumacchiavano come due spocchiosi, mentre Alex mise subito in moto e partirono dolci dolci. Se la spassarono un po' in quello che chiamavano il retrocittà, spaventando i vecchi e le vecchie che attraversavano la strada e zizzagando dietro i gatti e cose così. Poi pigliarono la strada ovest. Non c'era molto traffico, così Alex continuò a pigiare l'acceleratore che quasi faceva un buco sotto il pedale e la Durango 95 si mangiava la strada come fosse un piatto di spaghetti. La Durango 95 filava molto carascio, con piacevoli vibrazioni trasmesse al basso intestino. Ben presto alberi e buio, fratelli. Vero buio di campagna. Folleggiamo alquanto con altri viaggiatori della notte da autentici sbarazzini della strada. Poi decidemmo che era ora di eseguire il numero visita a sorpresa. Un po' di vita, qualche risata e una scorpacciata di ultraviolenza. Alla fine arrivarono a una specie di villaggio e proprio fuori da questo villaggio c'era un piccolo cottage isolato con un giardinetto intorno. La luna era alta e questo cottage si vedeva chiarissimo. Così Alex rallentò e poi frenò, mentre gli altri tre ghignavano come pochi. Scese dall'auto ordinando ai suoi di piantarla coi ghigni e di star seri. Aprì il cancello, andò fino alla porta e suonò il campanello. Chissà chi può essere. Vado a vedere. Sì? Chi è? Scusi signora, ci può aiutare? C'è stato un grave incidente. Un amico in mezzo alla strada, pozza di sangue. Posso telefonare per un'ambulanza? Mi dispiace, ma noi non abbiamo il telefono. Dovrete andare da un'altra parte. Ma signora, è questione di vita o di morte. Chi è, cara? Un giovanotto. Dice che c'è stato un incidente. Vorrebbe telefonare. Beh, forse è meglio farlo entrare. Bene. È un minuto, le dispiace? Mi scusi, ma in genere non apriamo ad estranei nel pieno... Allora entrarono tutti e quattro ruggendo come leoni. Nella stanza con la luce accesa c'era una bella ragazza impaurita, un bel bocconcino con un tubino rosso aderente al corpo. E con lei c'era un tizio anche lui piuttosto giovane. E sul tavolo c'era una macchina da scrivere e tanti fogli sparsi dappertutto. Bene, Pete, controlla tutta la casa, via! Glorious feeling, I'm happy again, I'm laughing at clouds. Alex cominciò a strappare i fogli, facendoli a pezzi e gettandoli per terra. E il tizio cominciò a dar fuori di testa e fece per saltargli addosso. Ma Bamba non aspettava altro e ghignando gli diede prima un pugno col sinistro e poi col destro. Così cominciò a venirgli giù dal naso un fiotto rosso che macchiò il bel tappeto pulito e i frammenti del suo libro che Alex stava ancora strappando. Email audiogrammi @radio24.it. Ribaltarono tutto in casa, ballando sul tavolo e saltando sopra i libri caduti per terra. Poi si concentrarono sul bel bocconcino di ragazza. Dopo di Alex era giusto che toccasse al vecchio Bamba. E lui lo fece in una maniera bestiale, sbuffante, ululante e impassibile, mentre Alex la teneva ferma. Poi ci fu come una calma irreale ma piena d'odio. E poi fracassarono tutto quel che restava da fracassare. Macchina da scrivere, lampada, sedie, tutto quanto. Il tizio e la sua ragazza non erano più tanto presenti, laceri e insanguinati e arrantolanti come erano, ma sarebbero sopravvissuti. Così Alex e i suoi tornarono all'auto in attesa, e Alex lasciò il volante a Georgie e tornarono in città per la stessa strada, incappando ogni tanto in strane cose squittenti che finivano sotto le ruote della Durango. Ci sentivamo dunque leggermente strapazzati e infiacchiti per via del fatto di aver usato alquanta energia vitale, o fratellino. Perciò, riceduta la vettura, ci fermammo al Corova per rinfreschi. C'era qualche sofisto della TV che agli studi lì vicino, a ridere e gavottare fra loro. La Dvochka sorrideva del tutto incurante dei grandi guai del mondo. E poi il disco nello stereo smiagolò nel nulla, e nel breve silenzio prima del disco seguente, eccola lanciarsi in un'esibizione di bel canto. Freude, schöne Götter, Funken, Tochter. E per un momento, oh fratelli, un usignolo era entrato nel milk bar. E tutti i più malenchi peli del mio intero plotto si drizzarono dall'emozione. E brividi su e giù, come malenche lucertoline, su e giù. Perché l'aria, io la sapevo, era un pezzo della gran nona del Ludovico Van. Il vecchio Bamba si lasciò andare a una delle sue volgarità, che in quel caso era una tromba labiale. E Alex, sentendo questo disturbo provocato da Bamba, si sentì improvvisamente come se avesse la febbre. Gli sembrò di stare annegando in un bagno di sangue bollente e lo colpì con forza con il suo bastone da passeggio. Ma perché fai così? Perché sei un bastardo maleducato, senza un duco d'un'idea di come ci si comporta pubblicamente, fratellino mio. Non mi va per niente che tu fai quello che hai fatto. Da adesso non sono più il tuo fratellino e non voglio esserlo più. Stai attento. Stai bene attento, Dim, se della vita la continuazione a cuor ti sta. Yar balle! Grandi, enormi, bolshoi balle a te! Scegli te! Catene, coltello, lama da barba, quando vuoi. Io dati attacchi alla spicciolata, non li accetto. Chiaro, no? Non ci sto! Quando vuoi, una partitina in oscoltelli. Dubbi dub. Forse un po' stancuccio. Meglio chiuderla la bocca. Il buon Lettuccio chiama adesso. Andiamocene a casuccia a farci un po' di spaccia. Right, right. Right, right. Right, right. Alex era molto stupito e gli altri due annuivano gravemente, muovendo la testa in su e in giù. Arrivò al portone principale senza aver avuto seccature ed entrò in casa. Quella sera aveva una voglia di musica da morire. Forse era stata quella quaglia canterina del Corova a mettergliela addosso. Voleva un'orgia di musica prima di farsi timbrare il passaporto alla frontiera del sonno. Si lavò i denti e andò nella sua camera liberandosi dei vestiti che aveva mentre camminava. Lì c'era il suo letto e il suo stereo, i suoi dischi nell'apposito armadio e bandiere alle pareti. I piccoli altoparlanti dello stereo erano disseminati per tutta la stanza, sul soffitto, sulle pareti, sul pavimento. E così, quando ascoltava la musica disteso sul letto, Alex si sentiva come intrappolato e impigliato dentro l'orchestra. Giaceva tutto nudo a pancia in su, gli occhi chiusi, la bocca socchiusa per la beatitudine, ascoltando i suoni meravigliosi. Mise il magnifico Mozart. Oh, deliziosa delizia e incanto. Era piacere impiacentito e divenuto carne. Come piume di un raro metallo spumato, o come vino d'argento versato in nave spaziale. Addio, forza di gravità. Mentre slusciavo, quali visioni incantevoli. Alex! Che cosa vuoi? Le 8 passate, Alex. Fai tardi per la scuola, figlio mio. Mi fa male il Gulliver, ma... lasciami in pace, dormendo mi passa. In modo che per il pom sarò in piena forma. Non sei mai andato a scuola questa settimana? Riposo, ma... devo rimettermi. Altrimenti potrei danneggiare la mia educazione. Ti lascio il breakfast in caldo. Io devo andare a lavorare adesso. Addio, ma. E divertiti in fabbrica. poi infilò i piedi in comodissime pantofole di lana, pettinò i suoi bei capelli ondulati e, girato l'angolo per tornare in salotto, vide l'ispettore giudiziario, il signor Deltoid. Sedeva nella bigia poltrona a dondolo di suo padre e cominciò a dondolarsi come se fosse venuto a casa sua apposta per quello. Ciao, ciao, ciao, signor Deltoid. Strana sorpresa trovarla qui. Allora, Alex, bello, finalmente sveglio, sì? Imbattuta in tua madre che andava al lavoro, sì? Datami la chiave. Dimmi che avevi male da qualche parte e quindi niente scuola, sì? Atroce dolore terribile alla testa, compagno Sam. Penso sarà svanito nel pomeriggio. Certo, prima di stasera, sì? La sera è l'ora ideale, vero, Alex Bello? Tazza di chai, sir? Non c'è tempo, non c'è tempo, no. Siedi, siedi, siedi. Qualcosa che non va, sir. Cosa? Perché devi pensare che c'è qualcosa che non va? Commesso qualche peccatuccio, sì? Solo un modo di esprimersi, sir. Sì, ma è anche un modo di esprimersi del tuo ispettore giudiziario minorile, che dice di stare molto attento, perché la prossima volta non sarà più il correzionale Alex Bello e il sole a scacchi. La prossima volta è tutto il mio lavoro che va in fumo. Se non hai un immeritato rispetto per te stesso, almeno abilo per me, che ho faticato tanto per te. È una brutta macchia per noi. Noi ogni delinquente che non riusciamo a redimere, l'ammissione di un fiasco. Qualcosa di brutto è successo la notte scorsa, sì? Alcuni amici di Billy Boy sono rientrati in ambulanza, sì? È stato fatto il tuo nome, mi è stato riferito dalle solite fonti e sono stati fatti i nomi di altri tuoi amici. Oh no, non ci sono prove su nessuno, come sempre, ma ti avverto, caro Alexino, da buon amico, come sempre, l'unico tuo vero amico in questa società marcia e malata, ti avverto per il tuo bene, e lo dico sol per te. Non vi è un solo indizio a mio carico, compagno Sir. Sono stato alla larga dai miliziani da lungo tempo ormai. È questo che mi preoccupa più a lungo di quanto di solito avvenga. Ti dovrebbe toccare dai miei calcoli. Per questo ti avverto, Alexino. Tieni la tua giovane e bella proboscide lontana dal fango. Mi sono spiegato chiaro? Come un lago senza fango, sir. Così limpido come un cielo d'estate sempre blu. Fidati di me, compagno sir. Alex gli fece un largo sorriso, più rassicurante che poteva. Quando rimase solo, Alex rise tra sé, pensando a quello di cui si preoccupavano il signor Deltoid e i suoi. D'accordo, lui faceva male, pensava, con tutti quei pestaggi e quei lavoretti col coltello. E capiva che non si poteva mandare avanti una nazione se tutti si comportavano come faceva lui la notte. Tornò a dormire e andò a finire che si svegliò piuttosto tardi. Uscì di casa e, arrivato in fondo alle scale, ebbe una sorpresa. Rimase stupefatto. Bamba, Georgie e Pete erano venuti a prenderlo. Lo stavano aspettando. Ah, che cavolo debbo l'enorme onore di questa visita inattesa. Mentre Bamba ridacchiava, Georgie disse: stavamo bevendo robusti bicchieri di latte migliorato. Ti aspettavamo? E tu non sei arrivato. E abbiamo pensato, beh, forse Capodrugo offeso per qualche motivo. E siamo venuti alla residenza. Alex, avvicinandosi a Bamba, rispose: doppieta tante scuse, se. Avevo una specie di peso al Gulliver, così ho dovuto dormire. Non fui svegliato al momento fissato per la spesa. Spiacente per il dolore. Uso eccessivo di facoltà mentali. Dare ordini, disciplina e roba simile. Sicuro stai bene ora? Se tornassi a dormire non sarebbe meglio? Che ne diresti se chiarissimo per benino tutto quanto? Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook e in podcast su radio24.it. In qualità di vostro drugo e leader ho diritto di sapere cosa succede, eh? Allora, Dean, a che cosa allude questo tuo ghigno da cavallo drogato? Momento, ora basta sfottere Dean, compagno. È la prima delle grandi novità. Novità? Chi le ha decise le novità? C'è stato un enorme complotto dietro le mie spalle addormentate, di certo. Beh, se lo vuoi sapere, sappilo allora. Noi si lavora, noi si svaligia botteghe e così via. E alla fine ci rimane un pugnetto insignificante di spiccioli ciascuno. Pugnetto insignificante? Non hai tutto il necessario? Se volete una bella auto, la cogliete dall'aiuola stradale. Se ti servono i tintinnanti, le gratti, no? Fratello, tu a volte ragioni e parli proprio come un ragazzino. Ragazzino, sì. Noi invece ci facciamo un bel colpo da adulti stanotte. Un bel colpo da adulti stanotte. Bene, cara Shaw! L'ispirazione arriva a chi la sa aspettare. Vi ho insegnato molto, miei cari droghi. Allora, dimmi che cos'hai in mente, Georgie Boy. Ci vuole prima un latte più, non ti pare? Un po' di latte più, Specialmente latte te, più, per tirarti su. Un bel po' di latte più, Specialmente per te, noi siamo già svegli. Già, specialmente per te, noi siamo già svegli. Un bel po' di latte più, Mentre camminavamo lungo la baia del cemento abitato, ero calmo di fuori, ma dentro pensavo: allora adesso chi comanda è Giorgi. Decide che cosa si deve fare, cosa non fare. E Dim e il suo tonto digrignante bulldog. E d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione e a quello che il buon Bog manda loro. La musica mi venne in aiuto. C'era una finestra aperta con uno stereo e seppi subito che cosa fare. Alex tirò fuori il coltello, ma Georgie fu abbastanza rapido da far scattare la lama del suo serramanico e si ritrovarono l'uno davanti all'altro. Alex iniziò a manovrare la lama mirando alle guance di Georgie. Il suo coltello cadde con un tin-ton sul duro marciapiede invernale. Alex lo aveva solamente graffiato, ma l'altro era già là che si guardava il rivoletto di sangue che sporcava l'asfalto. Il suo stile a quel punto imponeva di tener bassa la guardia, stando pronto a saltare all'indietro per proteggersi dagli attacchi di Bamba e Pete. Bamba gli piazzò un colpo così forte sulla schiena da lasciarlo senza fiato, ma quel dolore lo avvertì che doveva contrattaccare una volta per tutte e farla finita col vecchio Bamba. Così saettò con il coltello verso la sua gamba sinistra, tagliando via due pollici di stoffa e tirandogli fuori un fiotto di sangue rosso per fargli perdere completamente il controllo. Così, mentre Bamba sanguinava e ululava come un cane, Alex usò la stessa tecnica che aveva adoperato per Georgie, virando e puntando su un'unica mossa vincente. E sentì la lama andare ben dentro la carne del polso, e il vecchio Bamba lasciò cadere la sua catena come un serpente, piangendo come un bambino. Pete rimase immobile e impaurito. Allora Alex prese un fazzoletto pulito per fasciare la mano del povero vecchio Bamba, che ululava e gemeva come pochi. E il sangue si fermò. Così, ora tutti sapevano chi era il capo e chi le pecore. Non ci volle molto per calmare quei due soldati feriti al calduccio del Duke of New York con dei bei brandy doppi. Ora sapevano chi era il signore e padrone. Pecore, pensavo. Ma un vero leader sa quando concedere e mostrarsi generoso agli inferiori. Allora, abbiamo ristabilito le posizioni, vero? Tutto come prima e pietra sopra? Right? Right. Allora, Georgie Boy, l'idea che avevi per stasera, dici tutto quanto allora. La clinica per dimagrire. Fuori città. Isolata. Proprietà di una molto ricca petizza che ci abita con i suoi gatti. Il posto è chiuso per 8 giorni e lei è tutta sola. E la casa è piena d'oro, argento e gioie varie. Alex sapeva dov'era, nella città vecchia, appena passato il Victoria Flat Block. Così arrivarono quatti e tranquilli a questa casa chiamata La Residenza. E c'erano dei lampioni a globo su gambi di ferro messi come di guardia uno di qua e uno di là dal portone. Da una delle stanze a pian terreno veniva una lucina fioca e loro si appostarono in una bella zona d'ombra della strada per guardare dentro la finestra. Questa finestra aveva delle sbarre di ferro come quelle di una prigione, ma si vedeva bene lo stesso tutto quel che succedeva dentro. E dentro c'era questa vecchia coi capelli bianchi e un viso rugosissimo. Nella stanza c'erano un sacco di vecchi quadri alle pareti e degli orologi molto elaborati e altri oggetti tipo vasi e altri ornamenti che parevano antichi e davano l'idea di essere molto costosi. Alex guardò in su e notò che sopra la porta c'era una finestra a ghigliottina aperta. Sarebbe stato molto facile arrampicarsi ed entrare da lì. Io entro da quella finestra e apro la porta. Bamba era il più robusto, così Pete e Georgie sollevarono Alex ed entrare dentro fu facile come entrare nella vasca da bagno. Di sotto c'erano le sue pecore che guardavano in su a bocca aperta. Dentro era buio pesto, con un sacco di letti e armadi e sedie e pile di scatole di libri in giro. Ma Alex andò filato verso una porta sotto la quale filtrava una lucina fioca. Un bello spreco tutte quelle stanze per un'unica vecchia. Alex vide le scale che andavano giù nell'ingresso e pensò tra sé che avrebbe fatto vedere a quei suoi indegni e volubili soma che lui da solo valeva più di loro tre messi insieme. Avrebbe fatto tutto da solo. Avrebbe eseguito la sana ultraviolenza sulla vecchia, poi avrebbe preso tutto quello che aveva l'aria di essere roba buona, sarebbe andato verso la porta ballando il valzer, l'avrebbe aperta e avrebbe fatto piovere oro e argento sui suoi soma in attesa. Dovevano imparare tutto sull'arte del comando. Entrò nella grande stanza della vecchia. Ciao, ciao, ciao. Finalmente ci conosciamo. Come diavolo è entrato? Che porco accidente ha intenzione di fare lei? Birba, birba, birba, vecchia sporcacciona. Stammi a sentire, tu lurido bastardo, fai dietro fronte e vattene subito così come sei venuto. Dette un rapido sguardo alla stanza e alla vecchia che teneva un bastone da passeggio e l'aveva alzato per minacciarlo. Si avvicinò a lei tanto per guadagnar tempo. Insomma, che porco cavolo vuoi? Beh, a dir l'onesta verità, madame, io prendo parte a un concorso internazionale studentesco per chi riesce a smerciare più copie dell'enciclopedia a puntate. Tutte balle, giovanotto. E levati dai piedi prima che ti succeda qualche grosso guaio. Verme, miserabile, pidocchioso, ti insegno io a penetrare nelle case della vera gente. La vecchia lo strattonò, prendendolo per la patta dei pantaloni, e facendolo cadere a terra iniziò a dargli dei ceffoni sul viso. Mentre Alex si rialzava da terra, sentì la sirena della polizia in lontananza e gli venne in mente l'idea che forse la vecchia poteva aver dato l'allarme. Così si buttò come un missile sulla porta d'entrata e dovette faticare parecchio per togliere tutti quei chiavistelli e paletti e catene di protezione che c'erano. Alla fine riuscì ad aprire. E chi vide sulla soglia, se non il vecchio Bamba e gli altri due? Forza, andiamo, arriva la polizia! Un minuto, Drugo! Bamba gli mollò un colpo fortissimo dritto sulle palpebre con una bottiglia di vetro piena di latte. Alex si mise a ululare cercando di vedere qualcosa attraverso il dolore pulsante. E poi gli altri fuggirono, lasciandolo accasciato per terra, mentre la polizia ormai era arrivata. Mio bignacchi! Sono cieco! Non ci vedo! Fine primo tempo. Il secondo tempo di Arancia Meccanica, domenica prossima alle 20:15. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni.